3. Almeno 60 uomini, una dozzina di cavalli, 5 cani. Polli in abbondanza, stretti nella stessa gabbia. 4 bambini inseguivano un grasso porcello. Gabbiani chiacchieravano in volo. La creazione. Voci e rumori salivano dal cortile come vapore da una zuppa bollente. Scalavano le balconate, bussavano a ogni porta. Svegliavano i clienti uno dopo l'altro. Il sonno di Filippo era una rete a maglie larghe. La maggior parte dei suoni lo attraversava senza spezzarlo. Nel dormiveglia era capace di dare un nome a ciascun rumore, di valutarne volume e distanza. Aveva imparato da bambino e ormai era un'abitudine. Alla missione lavoravano molti Caugnawaga. Era stato uno di loro a insegnare a Philippe i rudimenti della caccia. I padri non s'erano opposti, purché l'attività non sottraesse tempo allo studio e alla preghiera. Così, non potendo stare nei boschi da mattina a sera, erano nati una serie di esercizi per tenere svegli i riflessi, sensi e muscoli. La creazione era uno di quelli. L'aveva soprannominato così padre Guillaume, sempre attento a rivestire di Dio qualunque cosa riguardasse un suo allievo. Philippe scivolò fuori dal letto. Peter dormiva ancora. Estrasse gli abiti dal baule e iniziò a vestirsi. Semplici ma di ottima stoffa. Infilò gli stivali, uscì e si affacciò dal ballatoio. Il cigno a due colli era un ampio edificio senza fronzoli che chiudeva i tre lati di un cortile. Il corpo centrale ospitava le stanze con accesso dall'esterno attraverso balconate di legno che rivestivano la facciata. Traiettorie di uomini, veicoli e bestie si incrociavano nel fango. Un ubriaco trascinava i piedi fuori dalla taverna. Facchini parevano soccombere sotto carichi impossibili. Un ragazzo correva sulle gambe sottili per consegnare lettere e pacchi. Carri e cavalli si urtavano per guadagnare il voltone d'uscita. I postiglioni chiedevano strada mentre nugoli di bambini assediavano i passeggeri con offerte di pettini, spugne, rasoi, specchietti e frutti arancioni che Filippo non aveva mai visto. Di fronte alle stalle, diligenze attendevano cavalli e riparazioni. L'atmosfera del luogo aveva un che di familiare, pensò Philippe. Nella valle del Mohawk, le case più grandi erano sempre anche locande, stalle, uffici postali, spacci, rimesse per barche e armerie. La gente andava e veniva, le vite si sfioravano e questo bastava a conoscere più cose di quante Canajoharie potesse contenere. Imboccò le scale e scese di sotto. Neanche il tempo di guardarsi intorno e già era circondato dai venditori di cianfrusaglie, scandalizzati che un gentiluomo come lui affrontasse la giornata senza acquistare simili mercanzie. Pagò uno dei frutti sconosciuti, lo infilò in tasca e si smarcò. Fece pochi passi in direzione dell'ingresso, ma un tizio dai vestiti logori e l'aria sussiegosa riuscì a mettergli in mano un foglio. «Un'esibizione che non potete perdere, signore, soltanto 3 scellini!» La battuta sembrava recitata a memoria. «L'uomo istrice?» domandò l'indiano, leggendo l'annuncio. «Un uomo con gli aculei al posto della normale peluria, signore. Sensazionale, mai visto in nessuna città del regno». Le frasi uscivano come una cantilena. «In cosa consiste l'esibizione?» chiese ancora Philippe. «L'uomo istrice vi mostrerà il tronco e le gambe. Potrete toccarlo e notare che non c'è nulla di finto, solo uno scherzo di madre natura. Poi lo vedrete comportarsi come un istrice, camminare a 4 zampe, rizzare gli aculei, dare la caccia ai vermi». «Quest'uomo mangia i vermi?» L'altro ammiccò. «Ma no, solo così, per intortare le babbole e sudarsi la stecca». «Come dite?» Il tizio sgranò gli occhi, come colto sul fatto a commettere un crimine. «Niente, signore, niente, sensazionale, mai visto l'uomo istrice». E così dicendo si allontanò, col plico di fogli stretto sul cuore. «Nulla di che preoccuparsi, signore. È il mercato». Philippe si girò e vide un uomo elegante sui 30 anni. Un sorriso a bocca aperta si allargava verso le orecchie e tagliava il volto in due, tronco d'albero che attende l'ultimo colpo. L'uomo portava un grande cappello. Accanto a lui un negro grande e grosso, altrettanto ben vestito, reggeva una borsa di cuoio. «Permettete che mi presenti, signore. Mi chiamo Mogam. Frederick W. Mogam. E la W sta per Winslow. Questo è il mio segretario, il signor Cornelius Pigou. Voi siete straniero. Si vede subito, signor Philippe Lacroix. Francese, dunque. Sono cresciuto in Canada. Prima volta a Londra, non è vero? Sì, è esatto. Dovrete abituarvi a gente come quello straccione. Tolta l'invadenza di chi cerca di venderle, le merci di bassa qualità sono innocue. La moneta buona scaccia quella cattiva e se vi è libertà di scelta, Londra è la capitale della libertà di scelta. In nessuna altra parte del mondo circolano tante merci. Mugham allargò le braccia come per afferrare la maggior quantità possibile di mondo. In nessun'altra città il mercato si regola con tanto mirabile equilibrio. Philippe cercò invano di dare un senso a quelle parole. Mugham dovette capirlo, perché cambiò espressione, abbassò la voce e riattaccò il discorso con un tono più calmo e paziente. «Signor Lacroix, l'uomo vestito di cenci vi ha appena offerto una merce tra le più ricercate, il divertimento, la distrazione, il brivido dell'inconsueto. Ogni giorno persone dai gusti semplici si eccitano vedendo l'esibizione dell'uomo istrice e di chissà quanti altri suoi colleghi, veri o presunti, scherzi di madre natura». Nani, giganti, ermafroditi, donne col becco d'anatra, uomini con quattro testicoli. Si tratta di imbrogli, di messi in scena per creduloni, prodotti di infimo livello, per giunta proposti in modo rozzo. Se chi vende questi spettacoli rimane in affari, è perché opera in condizioni particolari, limitando con artifici la libertà di scelta. Mi seguite? Seguirvi? Intendo dire, capite quel che sto dicendo? Quel genere di spettacoli viene proposto a persone come voi, di fronte ad alberghi e stazioni di posta. Gente di passaggio, che si trova a Londra per la prima volta, è a caccia di sensazioni forti, ma non conosce quel che la città offre né ha il tempo di informarsi e scegliere l'offerta migliore al prezzo più vantaggioso. Così si ritrova a vedere l'uomo istrice e magari prosegue la serata facendosi spennare in una bettola dove il cibo è avariato e il vino è acqua tinta. Per concludere il proprio excursus in un vicolo con una battona di bassa levatura. Sovente, dietro c'è un accordo, quando non un unico interesse. Il padrone dell'uomo istrice è anche proprietario della bettola, nonché protettore della battona. Il vostro excursus è stato pilotato fin dall'inizio, in modo da impedirvi di conoscere altre offerte. Così si chiude e blocca il mercato, si abbassa la qualità dei beni, si rende cattivo servigio alla città, all'Inghilterra, all'impero. Ed ecco che arrivo io. Voi? Sì, io. Un suddito leale come Frederick W. Mugham non può permettere che un gentiluomo come voi torni in Francia o in Canada convinto che gli intrattenimenti di Londra siano dozzinali, che il cibo sia immangiabile e costoso, che le battone inglesi abbiano carni frolle e seni cadenti. La mia è una missione. Assecondando le forze del mercato, contribuisco alla ricchezza della nazione. Il servizio che offro ai gentiluomini è, né più né meno, la possibilità di esercitare il proprio libero arbitrio. Come vi dicevo dianzi, la moneta cattiva è scacciata dalla buona. Io metto in circolazione moneta buona. Il lungo discorso aveva ubriacato Philippe. Era combattuto tra il desiderio di rientrare in albergo e la curiosità di capire quale fosse il punto. «Anche voi mi state offrendo qualcosa?» Mugham sorrise e fece un cenno al suo segretario. «Pigou, apri la borsa!» Il negro eseguì. La borsa era vuota. «Ciò che io vendo, signor Lacroix, è informazione. Vedete cosa c'è in quella borsa?» «Non c'è niente, direi.» «Esatto, esatto, niente. Ma immaginate!» E abbassò ancora la voce. «Immaginate che quella borsa sia piena di carta. Centinaia e centinaia di fogli, nero su bianco. Tutto quel che Londra è in grado di offrire a un uomo di mondo. Nomi. Indirizzi, prezzi, le puttane più belle ai prezzi più convenienti, gli spettacoli più bizzarri per clientele selezionate, l'oppio migliore da fumare nella più totale discrezione, i ricevimenti particolari a cui accedere con parole d'ordine, le persone a cui rivolgersi per soddisfare i gusti meno usuali. Chi ha da offrire questi servizi si rivolge a me e io metto in contatto la domanda e l'offerta. Si rivolgono a me perché sono il migliore. E lo sono diventato senza scorciatoie, sbaragliando i competitori grazie alla qualità del servizio. Mi seguite, signor Lacroix? Philippe non disse niente. Confusione e curiosità lasciarono spazio al disprezzo. Il negro chiuse la borsa. Mugham continuò. Si tratta di informazioni che fanno girare l'economia, signor Lacroix. Tuttavia, voi comprenderete, non sono cose che si possono gridare ai quattro venti. Io sono un patriota e un suddito che ama Re Giorgio. Ma devo dire che le autorità inglesi sono ancora molto arretrate. In nome di una morale vetusta pongono inspiegabili freni al commercio e mantengono fuori legge alcuni beni e servizi. Presto dovranno mutare atteggiamento e lasciare il mercato libero di crescere. Finché quel giorno non verrà, ciò che dovrebbe stare in quella borsa sta tutto qui dentro. Con la punta dell'indice destro si toccò la fronte. Non avete che da chiedere, signor Lacroix. Vorreste intrattenervi con qualcuno? Posso proporvi donne giovani, donne vecchie, donne in carne, donne scheletrite, oppure uomini, fanciulli e altre creature di Dio, se mi sono spiegato. Cosa vi piacerebbe vedere? Incontri di pugilato all'ultimo sangue? Vi piace scommettere? C'è un posto dove i negri si affrontano con coltello e bastone. Tutti negri liberi, ovvio. Anche Pegù è un uomo libero. Io sono contrario alla schiavitù. Ciascuno ha il diritto di vendersi al prezzo che ritiene giusto. Ehi, ma dove andate, signor Lacroix? Philippe si diresse verso l'albergo. Mogam e Pegù lo seguirono per una decina di yard. Signor Lacroix, ho tante altre offerte da farvi. Badate, non troverete nessun altro in grado di dirvi... Uno degli uscieri del cigno a due colli vide i tormentatori, agitò il pugno e disse: «Ancora qui, schifosi depravati! Se importunate di nuovo un nostro cliente, vi faccio pestare a sangue!» I due si allontanarono. Philippe entrò e si lasciò il mondo alle spalle. Respirò forte. Dentro si aprivano due sale, una di seguito all'altra. Joseph gli fece cenno da un tavolo accanto alla finestra. Addentava una fetta di pancetta in compagnia di uno sconosciuto. Quest'ultimo vomitava parole in un dialetto incomprensibile, con l'aria di chi ne avrà per un pezzo. Philippe afferrò una sedia e provò a rintracciare il bandolo del discorso. Guardò l'amico. Ascoltava attento, annuiva. Ogni tanto sollevava la tazza e mandava giù un sorso di brodo. «Capisci qualcosa?» sussurrò Philippe in lingua Mohawk. «Niente affatto», fu la risposta. «Mi abituo all'accento di Londra». La sagoma rotonda di Jérôme avanzò a grandi passi verso di loro. «Signori», disse con voce piena di rammarico, «non dovevate mangiare qui. Vi avevo fatto riservare una stanza, cibo speciale». «State tranquillo, Jérôme», lo interruppe Joseph. «Qui va benissimo». «Come volete, signori. Il vostro albergo libera le stanze domattina e anche se ci dispiace vedervi partire». «Noi non partiamo», intervenne Joseph. «Qui stiamo bene e voi, Jérôme, siete un uomo premuroso». «Come i signori desiderano, la vostra presenza ci fa onore». Fece per voltarsi, ma si fermò. Frugò le tasche del panciotto ed estrasse una busta. «Dimenticavo, un biglietto per voi». Con un leggero inchino lo consegnò nelle mani di Joseph. «Buona giornata, signori». Philippe guardò l'amico aprire la busta e leggere il messaggio. Lo interrogò con un'occhiata. «Siamo invitati a un ricevimento a casa di un certo Warwick», rispose Joseph. «Il conte di Warwick».